3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Chi è? Chi è? Dove controllo il segnale? Mamma mia, sei scendi proprio. Ma sei in AM o sei in FM? AM. Non è possibile. Sembri in FM sempre. Guarda adesso. Allora sì, ti ha messo saturo che non si può prendere nulla. Saturo? Via. CQ10. Beh, Natalino. Beh, Pompucu. Cosa stai combinando? Male. Ti racconteremo. Cosa vuoi che stia combinando? Seduto sono qua. Come poveri vecchi. Ah, ti sei seduto, ti sei. Cosa vedo, ok. E allora, cioè, ciò che hanno comunicato sono, i carabinieri che sono arrivati lì, hanno trovato la signora. Mi sono seduto adesso, ero coricato, ero non addormentato, coricato, sdraiato, ma neanche e me ne sono alzato poco fa. Ah, io mi sono coricato una mezz'oretta nemmeno, poi ho cominciato ad arrivare telefonate da quei guasti delle. E ti che ti vengono la roba, ragazzi, ti trovava a far culo. Ho preso e sono alzato, se l'hanno presa in culo, se l'ho presa. Cazzo, ma perché le telefonate di pubblicità non arrivano? È proprio allora che sono sicuri che ti trovano, me. Non ti dà né drumì, né magnà, pure allora di brando ti telefoneggia. Infatti già avevo capizzato. Tre telefonate, tutte e tre la stessa identica cosa. Se non rispondi al primo numero ti chiamano al secondo, capito? E poi a quello normale, perché quando vedono mi fanno quel numero lungo, se non rispondi a quello cambiano numero, passano all'altro, poi passano a quello del cellulare normale, capito? A lei mi serve di quel filo smaltato. Vediamo cosa possa accadere in quella. Di quello che c'è nei cusimi, nei trasformatori. Non ho capito. Spontaneo. Di quel filo smaltato mi serve. Che qui ce ne sono altre, ci sono. Che devo farmi la carica di un'antenna. Tantissime. Ah, ti serve il ferro smaltato. Cosa smaltato ti serve? Vabbè, smaltato. E di quello lì mi serve, di quel filo smaltato. Quello è a ciappallo. Aspetta un secondo. Ah, già si può buscare. Basta un trasformatore, già ce l'ho. Trasformatore da 12 volts. Lo smonti, stacchi il filo smaltato del primario o del secondario. Già ne ho di quello già. Da solo tu già ne ho. Rimane un vecchio, poi c'ho. Questa è. Rame smaltato, aspetta. Saranno. 2-3 metri, una cosa del genere. Ah no, mi pensi Antonelli, che ho la televisione qua e mi sta ammazzando. Sono detto che ho trovato 2 metri o 3 metri di rame smaltato, capito? Per fare delle cariche per l'antenna, capito? Questo va bene per la cosa, se c'è lo stesso diametro della PLC, non della PLC, della tubo 2001. Ma ne servono molti di più perché devo farlo per i 40 metri. In questa vicenda devo fare un'antenna verticale. Allora bisogna che ti busco un trasformatore, che ti smonto un trasformatore da qualche stampato di qualche alimentatore e poi ti svolgi tutta la matassa. E come si fa a smontarlo per togliere il rame, Antonè, il trasformatore? Ehi, si può aprire, devi in pratica togliere prima il cartone, poi ci sono i quattro bulloni che tengono il, una parte all'altra, dopodiché ci sono quei fogli fatti a tre, capito, devi togliere uno a uno e una volta che sono tutti quelli, accedi al, come si chiama, al filo di rame e lo svolgi, capito? Lo svolgi tutto quanto. Sì, ho capito, ho capito. E poi sei a posto. Per costruirti una, la bobina di un'antenna. Devo fare una verticale per i 40. Io già ho capito che devi fare una verticale per i 40. E comprate il rame così, ti costa un bene, non peraltro, lo sto dicendo, con lo smaltato. Quindi bisogna prendere un trasformatore da, anche di quelli da 30 ampermi. Smontarlo e poi ti recuperi tutta la bobina, quelli già sono grossi già, i cavi. Tu non è, no, di quei trasformatori? Da 30 ampere non ne ho, ma da questo dovrebbe essere, questo dava 12-24, il diametro è, non è molto grosso. Il discorso è quello. Perlomeno. Non ti sembra quello? No, non è molto grosso come diametro. Aspetta, controllo l'altro per. L'altro già è più grosso. Ieri te lo smonto dalla, dallo stampato, perché è agganciato allo stampato, è agganciato di questo alimentatore autocostruito, capito? Te lo stacco dallo stampato così te lo, poi quando scenderò lì a certo studio te lo porto, va. E facciamo così, Antonella. Hai detto che si lava avanti? Avete già abbastanza grosso, quindi la Puglia. Sarà da due, dovrebbe essere il cavetto. Bello rigido. Sì, anda bene meglio. Tanto che c'è una, è piccolo, è normale. Come cavo, quello faceva 12-24, ma era, sarà stato 2 ampere, non di più. Invece l'altro già è molto più grosso. Anda bene meglio. Cava, cava, già non c'è problema. Cava. Ui, mi sembra che funziona ancora questa cosa. Ma che è da 1,2. Sono ancora a carica, cazzo. Ui, testa. Non sta entrando più nessuno in questo cavolo di baracchino, bubu. Sì, vabbè, la gente già ce ne sarà in giro, non ti preoccupare, non è quello il problema. Capito? Magari l'orario sarà, stanno facendo qualche cosa. Sì, è probabile, forse è troppo presto. Sì, sul 20 c'è la Russia, c'è. Su 27.200, 9.40 arrivano in FM. L'ho chiamato, ma ha risposto di me, non ho capito se mi abbia mandato a fanculo o cosa mi abbia detto. Fuggendo tutti dalla Russia, hai visto? Come ha detto che devono fare il militare, andare in guerra. Ma sai, anzi se ne è fuggita. Ehi, io lo so, anche macchiso, che sta andando a farsi ammazzare, fa un macco. Guarda, guarda che quello l'ha ammazzato prima a Putin, non ti preoccupare. Si sono già girati i marongrassi di lì, hai capito? Una volta che fanno le manifestazioni di piazza, vedrai come lo ammazzano a lui, immediatamente. quando ti credi che duri molto. E poi devi mandare a ammazzare, perché cazzo ti vuoi fare le... recuperare tutti, boh, cosa ti posso dire, tutti gli stati che c'aveva, una volta che c'aveva la Russia, cazzo. Per carità, mi sei proprio fuori il gabuacco, è diventato scemo, proprio scemo del tutto. Mi aveva ammazzato prima, se lo ammazzano almeno si ritorna come prima, cambierà tutto, cambierà, diventerà democratica e... A parte che, vabbè, i danni che deve pagare la Russia, all'Ucraina, a ricostruire la... Luca, scoccia, ha voglia di venire a soldi. Sì, ma i russi stanno morendo di fame, poveracci. Vedrai che loro stessi lo ammazzano a quello. Sì, guarda, lo ammazzeranno sì. Qualche giorno che vai a qualche piazza a fare qualche comizio, vedrà che qualcuno prende e lo spara e lo lascia di secco e pesto, a lui e a quell'altro. Un colpo a conca, Michele, ma sai che c'è del giubbotto antiproiettile. E a testa ci vuole, un colpo a testa a lui e a quell'altro, e alla Brof, a tutti e tre. Quando sono in riunione, capito, un bel missile che parte da loro stessi, capito. A me lo ammazzano di lì, a Crepino. A certo punto dalla camera sopra la risposta ma roba da chiudere, la gente prendendo gli aerei e fuggendo, dice, e lo sai quanti ne hanno arrestato di quelli che stavano protestando in piazza, tutti a ricciare affatti. Sì, io lo so, non te lo dico di quando era successa la guerra in Kosovo, che se fuggivano con gli aerei militari per venire in Italia. Mi avevano il permesso, no, io me ne sono fuggito, fatemi atterrare. Vedrà che più di uno si prende qualche aereo militare, qualche aeronauta, capito, e se ne fugge. O qualche caro armato, tipo i caro armati fuggendo e andando verso il paese al fianco. Mollano tutto e se ne vanno a piedi, vedrai. Infatti, via, non è possibile. Certo, 300.000 riservisti ti vuole mandare al macello, ma che c'è un macco tutto, E poi sarebbe ad andare per ammazzare i fratelli stesso, che poi sono armati fino ai denti gli ucraini e li ammazzano, vedrai che succede un casino. Se tanto succederà un casino, sì, bisogna vedere quanto dura lui adesso, e non penso che duri molto, no? Con tutto quel casino che sta succedendo lì adesso, oiuia. Certo che è triste, anche chi viso pochi ricchi e un bel di enti molti di fame in Russia, capito? Stanno male lì, poi con le sanzioni che gli hanno messo, uiui. Già lo so, già, sanzioni, hanno fatto nuovo le sanzioni a lui. Come l'Iran, d'altronde, hai visto anche l'Iran, si stanno girando le balle anche lì. Per forza, vogliono cose che non stanno né in cielo né in terra, ma buffonelli, la gente vuole la sua libertà, capito? Questi cazzo sono trattati proprio male. Come lo zavo, capito? Pietro il Grande, tutta roba sua, quindi, figurati. E dell'Unione Sovietica era, siccome adesso non esiste più l'Unione Sovietica, e dovevo annettere tutti i paesi che c'erano prima, domani vi davanti. Sai che ci hanno fermato prima, capito? Altro che Uiuia, per carità. Cazzo, mi fa male il piede. Mi sono messo un paio di scarpe e cazzo mi ha fatto l'impronta nera, mi ha fatto nel corso, fanculo a me, cazzo, ho messo con le scarpe quel giorno per andare a lavorare. adesso mi sono messo la crema, mi sono messo il Voltaren, speriamo che sparisca. E a me mi stavano rovinando quelle scarpe antinfortunistiche, a me mi avevano scrostato il dito grande del piede sinistro, un dolore, mamma mia, non potevi già, e con tutto che erano più grandi le scarpe, perché quelle antinfortunistiche vogliono più mano, se no ti faccia rubini. Già lo so, no, a me invece mi toccava lì dove lasci la scarpa, capito, nel fianchetto, e me ne sono accorto ieri, e ho detto, cazzo, queste due macchine non le ho mai viste, perché prima non ce l'avevo, ma non sono grandi, sono piccole, come apprezzato, capito. E dove stai lavorando, Antonio, adesso? Stavo facendo manutenzione in un resort, capito? E l'ultimo giorno abbiamo fatto ha fatto 40 anni di matrimonio lui, e quindi ha festeggiato e ho dovuto preparare pastici, poi sistemare tavoli, buffet, eccetera, eccetera, hai capito? Sì, ho capito. Sali scendi, cazzo, fare le cose, mi ha cremato tutto, tutto il giorno in piedi, sai cosa vuol dire, quel paio di scarpe che ho, cazzo, mi sono scarpe nuove e mi sono messo, le sono strette, cazzo, adesso già so qui in ciabatte, insomma, mi sono messo la crema a volta, almeno speriamo che mi passi. E se no già ci sono io. Oh signore benedentro. All'ombra. Dai, sei su punto. Stamattina è entrato doppio room, Carlo e Luca. L'ho sentito per 5 minuti perché c'era l'apparecchio acceso, dopodiché mi sono messo a cucinare per Simona, capito, ho fatto il sugo, poi ho fatto pasta, adesso stanotte vediamo un po', quindi già mangio un bel tramezzino con un coso intero di prosciutto di sebocco. I rumori si sentono, Antonè. I tuoi? Un innesco. Ah, c'è uno che stava fischiando, però è leggermente fuori frequenza. Guarda che siamo il 27.065. Cosa c'è portante? Sì, non è portante, è l'età di mezzo, diciamo. Ma scappa. Che non dà fastidio. Sì, infatti. Aspetta, mi metto le cuffie, 2 secondi. Entiendo, beh. Adesso sta fischiando. Le me, 95. Adesso attacco Isha Delta, aspetta. Ecco qua. Ecco Isha Delta. Si sente che era un bel ruso. C'è lo slide della... da pulire ogni tanto. Ciucchi ciù. Andrà bene. Bella amplificazione, eh? Si sente. A parte va al vento, va lì c'è sotto, si dà, che sente. Ciao. Eh beh, per forza, aspetta, spengo il televisore, cazzo, se non si intende più Edu che Dio. E io fai così, non c'è problema. Ciucca. Gaba. Andà bene, gli andà bene. Al femminile 9, al come 4.000 che sono belle non lo uso. Via, ti piace poco, gna gna. Gna gna gna. Budumine. Mi piace poco, gna gna, quello sì. Però vai rumorisottomi, Luca. Già mi busco la mazza e vado a romperglielo quel pedale. Mi sposto là che controllo. Ehi, il pedale, come ci rimani? Dici pedale del 127. Mi metti il pulsantino e con lì. Capito, mi lo faccio burro il pedale che. Che poi mutuo a recuperare, non è che sia tanto bello, è meglio usare la mano. Vabbè, se questo è quello per quello è meglio mettere il box. Almeno parli a mano libera. E il pedale me lo metto perché non posso avere cinque mani, no? Con una devi scrivere, quindi è meglio avere le mani libere. Vabbè. Ecco, il box, per questo si può modulare, non è quello il problema. Io c'ho il box qui, la sacca che inserisco e modulo senza cosa, senza utilizzare le mani. Posso andare anche in bagno quando a parlare. L'unica cosa che mi devo buscare sono un paio di cuffie con Bluetooth e parlo tranquillamente dall'accesso. Gava, con le MB più 5 la posso agganciare con box adesso. Le MB più 4 bisogna che lo modifico. Perché questo non si adatta. È diverso dal Condes 4000. Ho fatto la connessione del Condes 4000, adesso bisogna che faccia la connessione del 3009. Perché è diversa la connessione tra il 3009 e il 4000? Devo invertire un filo, se io aggancio le MB più 4 mi rimane la portante inserita, mi rimane. Non ho capito. Invece il Sadelta e l'M95 funzionano benissimo. E infatti. Oh signore, bene dentro. Adesso sono con l'MB più 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E già stai uscendo bene. E a capo. Esce bene, sì. A voglia. Mentre sto avendo la cosa, si intende. Adesso ho messo i due bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora, adesso il mio piccolo di modulazione che ci ha allucinato è lo smitter l'MBP5. Devo solo aprire quel cavo di alimentatore che ho costruito e togliere la vetra, quella che c'è, metterci un'altra. Aspetta. E di quelle silenziose ci vogliono. Adesso si sente ancora di più l'avvento. Prova. Fatto, prova. Cosa? No, ma si andando di meno, si intende più che sono rumori. Ehi, perché c'avevo una radio vicino al microfono al studio, stava facendo come un rientro, dai, capito? L'avevo spostato ai 5 centimetri. E va bene, scappa. Ehi, anda bene Meda. Gna gna. Ehi, gna gna. vecchio. E così ha detto lui che non gli piace più. Gli hanno esattrici, mai tu. Sei un po' un pucu. Ah, sei un po' un pucu. La gente che fa di cosa? Da che mi rubassi non fa di bigio, mi. Allora. È morto. No, è morto, è morto. Ma ci siamo. Non lo so, chiedilo a Natalino, Natalino. Basso è lui. Là. No, qua già sta arrivando. Dove sei a Itiri? Ehi, dove sei a Itiri? Mi aveva voglia che arrivi, gatta. Eia, vai! Non lo sai, sta sempre rompendo. Sta sempre saldando. Eia, c'è sempre ginocchio. Vai, tata lì. Chi è? No, io non lo sento, è la verità. Aspetta, Cristian. No, io non lo sento lui, c'è un innesco. Se c'è. Natalino, dal medico a farmi dare le medicine, perché quelle del diabete all'ospedale non te le danno, quindi devo far vedere tutte le medicine. Avanti Luca, se ci sei. Babbo, dai, se stai mangiando, mangia tranquillo, io giro canale, se c'è qualcuno, se no me ne vado a cantare. Chiedo. Ma cosa? Ho detto, stavo cenando. Se sono entrato vuol dire che non sto più mangiando. Luca, ci sei? Hola gente, hola. Dimmi, vedi, c'è anche Carlo. Ciao Carlo. Ciao Natalino. Ciao Gianni. Natalino, ho visto la tua antenna poco fa. Sono passato dalle tue parti in macchina. Tutto a posto? Sì, tutto a posto, da mettere a posto. Ora già, ci siamo ritrovati come stamattina praticamente. Sì, sì, ciao, mia moglie sta uscendo. Per il diabete, perché l'ospedale non le forniscono, quindi mi sono dovuto far fare tutta la serie dei medicinali. Ho capito, non posso venire là, ma cos'è che non ti rilassi, non ti rilassi. Se mi siete calpestati non ho capito nulla. Ho detto portagli tu i farmaci, così almeno te li danno e via, o sai che non ce li abbiano, ho capito. È quello che sto facendo. No, no, le ho chiesto alla dottoressa, mi ha detto di portarli io perché loro non li forniscono. Questo dove? La farmacia ospedaliera? Hanno alcune passive e altre no, quindi io mi prendo sicuro e porto tutto. quelle che avevo a casa. Le lascio a casa, mi ha fatto fare tutto l'elenco dal dottore, anzi non me le voleva dare, poi però non ho, ce le posso dare perché le ha richieste ad agosto, quindi va bene. Beh, Natale, oh Natale, mi ha messo la pulce nell'orecchio, il dottore dice che forse si paga per fare questa operazione. Vai, cosa si paga? A chi a me ha fatto pagare a mani? Ma giù fatto due e non mi hanno fatto pagare. E poi te lo dicono se si pagano, ma non penso, non è un'operazione mentre all'altro. Vabbè, tu mi hai detto stia attento che non la facciano pagare, perché queste cose magari le fanno pagare, non ho pagato manco al civile io. Vabbè, ma lui intendeva, perché è una clinica privata il policlinico, solo che aveva sommenzionato la regione come ti sia ripidari. Sì, ma è ibrida. C'è anche la SL in mezzo, capito? Sei convenzionato. Infatti. No, ma adesso non è più privata, no, come era prima. Prima era privata il policlinico ed era convenzionato ugualmente. Cava. Avanti Carlo, cosa ci racconti di bello? Non credo che tu debba pagare niente, forse devi pagare solo il ticket in base al reddito, capito? Per interventi del genere credo che non si debba pagare, perché anche mia moglie, non meno di un anno fa, aveva fatto un piccolo intervento alle cliniche, capito? E ha pagato solo il ticket, capito? Non ha pagato l'intervento, perché dovrebbe essere così. Io l'esenzione non ne pago il ticket. Però non paghi nulla. E anche io non ho pagato nulla. Ti ha messo la pulce nell'orecchio, l'ho detto, ma non è che la fanno pagare? No, non pensa, mi ha detto. Vediamo. E la garugantà, chi sei tonto? Sì, non è tonto, non già si è fatto il suo. È un bravo dottore. Va buona. Natali, ripetitela tu e raccontaci qualche cosa, perché io sono un po' stanco, ho fatto la fila esorbitante dal dottore. Ce n'erano su e giù dal portone addirittura davanti agli antivirus. Signore, ma io non ho pagato, la verità, ne ho fatto due interventi e non ho pagato al policlinico, anche perché tu poi sei pensionato e cose, quindi cosa, se non sei travagliente, cosa gli di, ti vai alla pensione, boh. Se poi ha l'esenzione non paga nulla. Anche io ho l'esenzione, non paghi niente. Perché funziona così, in effetti se hai l'esenzione risulta tutto da lì, capito? Vuol dire che sei in regime di pensionato e i calcoli li hanno già fatti, capito? Cappa di Roggero, andà bene. Adesso mi sono tolto l'ultimo pensiero. Mi sa che è già tutto pronto, va. La borsa è già pronta, sono in partenza. Ti hanno telefonato già? No, ancora no, non mi hanno chiamato ancora, però mi ha detto al più presto, perché ha messo con urgenza. Allora si fai bene a essere pronta. Sì, sono qua domani mattina, devo ritirare le ultime medicine perché non le avevano e arrivano da Cagliari queste qua, le iniezioni, e praticamente le ritiro domani mattina alle 10, però poi sono a posto. Bene, va bene. Così almeno non mi creo problemi, dai. Sto portando anche roba in più, dentifricio, spazzolino, che poi i denti non te ne lavano, non te ne puoi lavare perché ti reggono tutte e due le braccia di flebo. C'è qualcuno sotto, ma non si è capito granché. Sì, avanti, c'è la propagazione, forse, c'è qualche cosa di propagazione. C'è QRM, oggi, vabbè. Avanti, Natale. Ehi, io mi sto rullando una sigaretta. Io il vizio me lo sono tolto da un sacco di tempo, capito? Qualche birretta così, se mangio la pizza o in certe occasioni già la bevo, però le sigarette le avevo mollate già da un sacco di anni. Prima facevi un bicchiere di birra e una sigaretta e un bicchiere di birra, e poi ho mollato tutto. Neanche te, no, io birra non qualche volta. Ma se no non bevo nulla, acqua di fonte, come diceva mio nonno. No, io la birrosa me la bevo, ma quando la pista è come ha detto Carlo, non è che sono come quelli che vanno in giro con la bottiglia in bocca, ma una birra mangiando la pista già me la bevo, anche una bottiglia intera. Io lo stesso, non tutti i giorni, ma così ogni tanto una birretta, anche quando vado a fare la spesa mi compro quelle piccole da 33, le metto in frigo e ogni tanto una quando ho sete, se faccio qualche lavoretto eccetera, bella fresca, già me la bevo, ma a volte rimango anche un mese e mezzo senza toccarne, capito? No, io Carlo le compro anche grandi, compro quelle, come si chiama, non Peroni, ma Chinusa, quelle grandi, perché quando vado a prendere la pizza che è da 33 te la fanno pagare, da lì la pago 1,10 euro. Senta male. Ehi Antonio. Oui, allora. In compagnia di Gianni e Natalino facendo quattro chiacchiere. Cappa, buonasera a tutti, mi aveva chiuso adesso, e allora? E allora tu, questa potenza presa te l'hai. Calma, siamo quasi a buon punto, o io mi devo lasciare. Sì, vai, tranquillo, ci sentiamo dopo, dai, ciao. Oh, Antonio, già ce la risentiamo. Che la patente stava rifacendo, Antonio? Sicuramente ci aveva qualche bombola a consegnare. Sì, quello l'ho capito, ma ho detto la cosa doveva fare, l'esame della patente. Sì, l'esame della patente B. Ah, ho capito. Insomma, adesso speriamo bene con la situazione degli aumenti e la guerra, che ritorni tutto come era prima, se questo Putin riescono a farlo decadere e gli stessi russi, nel giro di 2-3 mesi dovrebbe ritornare il prezzo della benzina e del gas a livelli di 5-6 mesi fa, speriamo che vada così. Ah, quello un tiranno, non hai sentito cosa ha detto? Chiuserà tutte le armi, compresa quella nucleare. E quello è un pazzo furioso e non l'hanno fermato prima e lo devono fermare adesso. Addirittura vuole arruolare 300.000 riservisti e sta chiamando i ragazzi dai 20 anni sino ai 65 anni. Chi può se ne sta scappando via dalla Russia per non andare a combattere, capito? Quello lì deve fare la fine di Bin Laden, stanarlo e fargli fare la fine di Bin Laden, perché sennò se continua rovina il mondo. Esatto, il problema è che Bin Laden, diciamo, era un terrorista isolato, eccetera. Questo è capo di Stato di una grande nazione come la Russia e ha un sacco di armi, comprese quelle nucleari, capito? E purtroppo lui è un ex militare e secondo me non gli funziona bene la testa, adesso sta un pochettino, capito, divagando, però è pericoloso. Quello è paranoico, è un ex KGB, capito? Quello lì l'ammazzano i russi stesso, vedrai che adesso, ma lo sa, la gente se n'è fuggita dalla Russia. E la gente che ha fatto arrestare solo perché stavano facendo le manifestazioni contro di lui e li ha fatti tutti arrestare, però vedrai che l'ammazzano i russi stesso, bisogna arrivarlo by forza, è un pazzo furioso. Lo credo, ha rovinato l'economia mondiale praticamente, perché lui si trova in una posizione tra Asia ed Europa, quindi ha bloccato tutti i flussi, insomma, dalle linee aeree al mercato, diciamo, dell'energia, capito? Perché arrivava anche gas oltre la Russia, capito, da altre nazioni che ci sono oltre, invece ha bloccato tutto. La crisi che abbiamo noi ce l'ha tutta l'Europa e il resto del mondo per colpa di un pazzo che non vuole smettere, non si vuole arrendere, dice che lui deve difendere la Russia. La Russia non l'ha attaccata nessuno, è tu che ha attaccato quei poveri cristi di ucraini, capito? E non se ne vuole andare. Se butta la bomba atomica di vent'anni lui parla del mondo, capito? Cioè praticamente lui ha in mano il mondo perché rovina tutti. Se butta la bomba atomica ci piange pure lui, ma non so se vuol dire le radiazioni che vanno col vento. Io già lo so, va sulla verdura, va su tutto, non può più mangiare né bere né fare, diventerà una catastrofe. Il problema è che se non vogliamo arrivare a questo, devono essere gli stessi russi a fermarlo, qualche complotto, speriamo che riescano a organizzarlo bene e che lo facciano fuori, tanto giusto così quello lo possono mettere a tacere. Una balla in coca, Michele, Carlo. Perché può darsi che abbia anche il giubbotto antiproiettile, a testa lo devono sparare, almeno lo ammazza. Se lo vogliono ammazzare glielo ammazzano, capito? Anche come fa lui, no? Che fa avvelenare la gente, un veleno nel cibo e lo fanno fuori. Quello non ci riesci, perché quello fa assaggiare la roba prima di mangiarla lui. Lo vedi che era un ex agente dei servizi segreti, era un colonnello del KGB. Già lo butti domani così, una palla in fronte e basta, a farlo pure. Da lontano possibilmente. E infatti quello è l'essere paranoico, l'ha portato a assaggiare il cibo prima, l'acqua che beve, capito? Quello sì, quello c'ha proprio le paranoie da pazzo furioso, oiaia, ma già ci sono mille modi, capito? Ci sono certi veleni che anche col contatto, capito, ti fanno fuori. Lo respiri o ti va nelle membrane oculari, cose del genere, va in circolo, nel giro di 24 ore ti fanno fuori, anche nell'acqua o nel dentifricio, in qualsiasi cosa. Guarda, è quello, anche quando entra in bagno è accompagnato. E la palla allora, capo. Solo quella lo può eliminare, da lontano mi, che non sappia da dove viene il colpo. Già farà quella fine allora, vedrai che qualche cecchino da lontano già lo becca. E a Maragana. Qualcuno dei suoi, del KGB, se arrivi da noi, l'ok non ci impiegano molto. Siete sovramodulati.